Se un amico tu vorrai trovare, stai pur certo che lo scoprirai. È un amico pieno d'emozioni, è l'amico proprio che fa per te. Un amico per te, un amico per me, puoi trovarlo proprio quando c'è. Se ci pensi lo sai, tu lo ricorderai, è l'amico proprio che fa per te. Un amico per te, un amico per me, puoi scoprirlo proprio quando c'è. Se ci pensi lo sai, tu lo ricorderai, è l'amico proprio che fa per te. Che un bel giorno tu lo incontrerai, con un gesto salutarlo saprai. Un amico pieno d'emozioni, un amico proprio che fa per te. Un amico per te, un amico per me, puoi trovarlo proprio quando c'è. Se ci pensi lo sai, tu lo ricorderai, è l'amico proprio che fa per te. Un amico per te, un amico per me, puoi scoprirlo proprio quando c'è. Se ci pensi lo sai, tu lo ricorderai, è l'amico proprio che fa per te. Un amico puoi trovarlo proprio quando c'è. E nel sogno puoi ascoltarlo e ricorderai. Un amico per te, un amico per me, puoi trovarlo proprio quando c'è. Se ci pensi lo sai, lo ricorderai, è l'amico proprio che fa per te. Un amico per te, un amico per me, puoi scoprirlo proprio quando c'è. Se ci pensi lo sai, tu lo riscoprirai, è l'amico proprio che fa per te.